sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il Papa in Israele invoca ogni sforzo contro l'antisemitismo, poi la preghiera, sia pace in Medio Oriente. Respinta un'altra nave nelle acque maltesi, 69 clandestini saranno accolti in Italia, noi siamo andati a curiosare nelle città multietniche. Pakistan, guerra dimenticata, sono 1 milione i profughi in fuga dai talebani e questa mattina c'è stato un attentato kamikaze. Profondo rosso per la produzione industriale a marzo, ma l'OCSE vede la fine del tunnel, segnale di ripresa per Italia, Francia e Gran Bretagna. Minacce degli anarchici contro calabresi. Sui muri del capoluogo piemontese sono comparse frasi contro il neo direttore della Stampa. L'Iran cede alle pressioni internazionali, libera la giornalista anglo-iraniana accusata di essere una spia. Calciopoli, PM chiedono 5 anni per Giraudo, in 11 accusati di associazione a delinquere. Gerex Large, buongiorno da Alessio Maurizio. Buongiorno da Anna Migliorati. Erano molte le attese per questo viaggio di Papa Benedetto XVI che oggi inizia la tappa cruciale in Israele. Da più parti si erano evocate parole contro il negazionismo dopo la vicenda dei lefevriani. E il pontefice ha già risposto alle attese appena sceso all'aeroporto di Tel Aviv. Se famiglia è first. Sfortunatamente l'antisemitismo continua a sollevare la sua ripugnante testa in molte parti del mondo e ciò è inaccettabile, ha detto il Papa, e ha chiesto di fare ogni sforzo per combattere l'antisemitismo dovunque si trovi e per promuovere, ha detto, il rispetto e la stima verso gli appartenenti ad ogni popolo, razza, lingua e nazione in tutto il mondo. Parole che valgono per gli israeliani e per i palestinesi. E allora andiamo a Gerusalemme, dove a seguire il viaggio di Benedetto XVI c'è Carlo Marroni, buongiorno. Buongiorno a voi. Come è iniziata dunque questa giornata cruciale del Papa che lo porterà nel pomeriggio al museo della Shoah, Carlo? Sì, ha parlato il Papa appena arrivato all'aeroporto di Tel Aviv della Shoah, dei 6 milioni di vittime, e il popolo ebraico ha detto ha sperimentato le terribili conseguenze di ideologie che negano la fondamentale dignità di ogni persona umana. Naturalmente di questo tema parlerà tra poco nella visita al memoriale di Yad Vashem, dove sicuramente affronterà questi temi del negazionismo e quindi anche legati alle polemiche dei mesi scorsi con i lefevriani e con tutto quel mondo che tuttora rialza, come ha detto il Papa, la testa contro il popolo ebraico. È stato accolto all'aeroporto dal Presidente della Repubblica di Israele Shimon Peres, dal Premier Netanyahu. Peres ha ricordato al Papa l'importanza della libertà di religione che c'è in questo paese e soprattutto della libertà anche per i cristiani, in particolare l'accesso ai luoghi santi. Oggi il Papa avrà un colloquio ancora con Peres, quindi ci sarà anche possibilità di fare un colloquio politico che appunto riguarda sia la pace con i palestinesi, perché questo è l'altro grande tema affrontato da Benedetto XVI all'aeroporto, ha detto una pace giusta con i palestinesi, tema che sarà anche affrontato nei prossimi giorni quando andrà mercoledì esattamente nei territori palestinesi e segnatamente a Betlemme. Grazie a Carlo Marroni e noi più avanti ne parleremo ancora con un ospite, Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma. E purtroppo dall'estero arriva intanto anche una brutta notizia, una nuova strage di bambini in zone di guerra, oltre 100 figurano tra i civili tamil uccisi dai bombardamenti del fine settimana nel nord-est dello Sri Lanka, lo ha detto oggi un portavoce dell'ONU a Colombo. Secondo osservatori ONU sono ancora circa 50.000 le persone intrappolate in una striscia di pochi chilometri quadrati in cui l'esercito ha stretto i tamil, ma appunto anche i civili. E in Pakistan un attentato kamikaze quest'oggi, mentre va avanti l'offensiva contro i talebani, l'offensiva dell'esercito pakistano, che però sta provocando anche un numero crescente di rifugiati. Centinaia di veicoli carichi di gente in fuga dalle bombe attendono incolonnati ai posti di blocco. Il flusso di profughi continua sotto temperature che si aggirano intorno ai 35 gradi. L'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ha segnalato che dal 2 maggio sono già 360.000 le persone fuggite dalla valle di Swat e dagli altri distretti a causa dei violenti combattimenti tra talebani ed esercito pakistano e registrate poi nei campi profughi. Ma i media parlano anche di 1 milione di persone in fuga solo nelle ultime 24 ore. Cifre molto più ridotte sono state diffuse dalle autorità. Difficile avere notizie verificabili anche per quanto riguarda i morti. Il ministro dell'interno pakistano ha detto che l'esercito ha ucciso circa 700 talebani da quando l'offensiva si è fatta sistematica. Stando invece a testimonianze raccolte tra i profughi, l'esercito sembrerebbe più interessato a compiacere gli americani che a sconfiggere davvero gli estremisti islamici della Valle di Swat, e diversi civili hanno perso la vita sotto i bombardamenti, ciò nonostante i militari pakistani ostentano ottimismo. I talebani sono in fuga e cercano di bloccare l'esodo verso sud dei civili, ha detto il generale Attar Das, portavoce dell'esercito. Nei pressi di Peshawar, vicino ad un posto di blocco non lontano dalla Valle di Swat, si è fatto esplodere un terrorista suicida che, pur mancando di poco l'obiettivo, è riuscito a fare diversi morti, già una decina tra le persone in coda. Meno di 3 mesi fa il governo di Islamabad aveva firmato un accordo di pace con i talebani, di fatto consegnando loro la regione di Swat, già occupata, dove gli estremisti hanno imposto la legge islamica, la Sharia. Non hanno tuttavia cessato di combattere e sotto forti pressioni americane è scattata l'operazione dell'esercito pakistano per riconquistare la regione occupata. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Questa è la cronaca di queste ore, ma insomma, una ripresa dei combattimenti o una guerra dimenticata? Questo gran numero di rifugiati, di profughi in fuga e questo allarme di queste ore. La domanda la giriamo ad Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Ma dunque, a me pare innanzitutto che qui si tratti soprattutto di un'operazione che ricalca tante altre operazioni militari di questo tipo in Medio Oriente, in quell'area. Cioè si puniscono le popolazioni civili per il loro appoggio alla guerriglia e ai talebani. E le cifre in realtà sui militanti uccisi lasciano molto in dubbio, perché in realtà sappiamo molto bene che ci sono 350.000 persone in fuga che si aggiungono a un altro 500.000 di profughi in quella regione che si era prodotta già nell'agosto scorso. Punire le popolazioni civili perché evitano di appoggiare la guerriglia è un classico metodo quando in realtà non si riesce o non si può o non si vuole colpire i talebani stessi. E grazie ad Alberto Negri. E intanto nuove tensioni invece tra l'Italia e Malta. Una nave della Marina Militare, infatti, che ha soccorso i migrati nelle acque maltesi, respinta dalla Valletta, è in viaggio verso l'Italia. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, sì, è di nuovo scontro tra Malta e Italia dopo che il ministro degli interni Roberto Maroni aveva assicurato la scorsa settimana che i rapporti con l'isola del Mediterraneo erano tornati ottimi. Il governo maltese non autorizza l'ingresso nel porto della Valletta della nave Spica della Marina Militare Italiana con a bordo 69 migranti, tra i quali 16 donne recuperati in acque territoriali maltesi. Il salvataggio è avvenuto a circa 70 miglia a sud di Lampedusa, mentre la nave italiana era di ritorno da Tripoli e adesso si sta dirigendo verso Porto Empedocle. L'arrivo è previsto nel pomeriggio. Ci sono poi ancora polemiche sul respingimento. Stamattina ad intervenire è stato l'esponente del Partito Democratico Massimo D'Alema, che attacca Maroni. Il respingimento non l'ha inventato lui, dice D'Alema. Noi abbiamo avuto a che fare con gli albanesi nel canale di Otranto, ma abbiamo risolto il problema nel rispetto dei diritti umani e internazionali. Intanto invece Maroni parteciperà domani al vertice tra Egitto e Italia a Sharm el Sheikh, dove sarà firmata una dichiarazione congiunta di contrasto all'immigrazione clandestina, di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. E torneremo a parlare di Italia multietnica dopo le frasi del Presidente del Consiglio e anche le reazioni del mondo cattolico, tra le altre. Siamo andati nelle strade di alcune città italiane, oggi cominciamo con Milano e vi racconteremo tra poco com'è questa Italia multietnica. Buone notizie sul fronte della crisi in Italia, Francia e ora anche Gran Bretagna. Si registrano segnali di tentativi di pausa per la recessione economica. Lo afferma l'OCSE sulla base dei risultati di marzo del suo superindice previsionale sull'economia. Su queste basi, peraltro, si riuniscono oggi anche i governatori delle banche centrali a Basilea. I governatori del G10 faranno il punto della situazione. E intanto, per quanto riguarda l'Italia, l'Istat certifica un nuovo calo della produzione industriale che ha segnato segnato a marzo una flessione congiunturale, dunque sul mese precedente, il mese di febbraio, del 4,6%. La variazione su base annua, dunque marzo 2009 su marzo 2008, pensate, registra un calo del 23,8%. Fannulloni non è più la parola d'ordine del ministro Renato Brunetta. Oggi ha aperto il forum della pubblica amministrazione lanciando, sentite, una nuova provocazione. La giustizia elettronica, la scuola elettronica, la sanità elettronica saranno, come dire, le spinte decisive e fondamentali per cambiare, assieme al merito, perché non mi piace più il termine fannulloni. Abbiamo fatto una battaglia, l'abbiamo vinta, abbiamo ridotto l'assenteismo del 40% ed oltre. Adesso puntiamo al merito, premiare quelli bravi, premiare sempre quelli bravi e far capire a quelli meno bravi o a quelli che hanno una visione della pubblica amministrazione del passato che si cambia oppure se ne possono pure andare. E la cronaca ci porta a Palermo per un gesto apparentemente di follia. Un uomo è entrato questa mattina all'interno della stazione centrale e, armato di un grosso martello, ha sferrato micidiali colpi ad alcuni passeggeri in attesa, e sono ben due le persone in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato, si trova adesso agli arresti con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Quanto al movente, gli inquirenti propendono per ora per un improvviso raptus di follia. E sempre a Palermo, maxi operazione contro il racket. Sono due mandamenti strategici per l'organizzazione interna di Cosa Nostra, quelli di Brancaccio e Porta Nuova, smantellati la notte scorsa dalla squadra mobile di Palermo. Sono 37 fraterni, ordinanze di custodia, i provvedimenti restrittivi notificati da 250 agenti di polizia nell'ambito dell'operazione Cerbero, che ha colpito i vertici operativi e i fiancheggiatori delle cosche, che hanno portato a termine un numero considerevole di estorsioni. Per gli indagati, l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e favoreggiamento aggravato. La maggior parte delle persone coinvolte nell'inchiesta era già stata condannata per reati legati alla mafia. Gli investigatori coordinati alla DDA di Palermo hanno anche individuato i presunti addetti alle richieste di pizzo ai commercianti, ed è stato proprio grazie alla collaborazione delle vittime del pizzo, che sono stati interrogati nelle scorse settimane ed hanno collaborato, che si è arrivati agli arresti. Il questore di Palermo, Alessandro Marangoni, oggi ha sottolineato la necessità di una rivoluzione culturale per sconfiggere completamente la mafia, una rivoluzione che, ha detto, deve definitivamente esplodere con l'aiuto fondamentale dei siciliani. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Parliamo di TV, perché dopo l'esperienza di successo con Romanzo Criminale, al netto delle polemiche del sindaco di Roma che aveva parlato di emulazione, rischio emulazione per gli episodi di violenza, Fox trasforma in una serie un altro film, ma di tutt'altro genere, L'esilarante Non pensarci di Gianni Zanasi. Sarà in onda da lunedì prossimo, ma questo fine settimana è già stato proiettato in anteprima al Telefilm Festival e noi siamo andati a curiosare. È la storia di una famiglia disfunzionale sull'orlo di una crisi di nervi, talvolta letteralmente sotto acido. Sono i Nardini. Secondo me dovresti proprio provare questa roba. È uno sballo. Sì. Secondo me sì. Secondo te? Secondo me. Vecchio guru, no? Mamma, ho fatto fallire la fabbrica. Come? Giuseppe! La macchina! Quale macchina? La mia! L'abbiamo venduta 2 giorni fa. Benissimo! Stefano la rockstar in declino, Alberto che porta avanti in maniera folle la fabbrica di ciliegie sotto spirito, Michela che parla coi delfini, la mamma che si fida dello sciamano di Riccione, il padre che si fa venire un infarto facendo le bolle nella vasca da bagno a modo suo. I Nardini già avevano avuto il loro effetto deflagrante ed esilarante al Festival di Venezia 2 anni fa, ma ora il loro film Non pensarci diventa una serie TV. Stesso cast, Giuseppe Battiston, Valerio Mastandrea, Anita Caprioli, questa volta anche con Luciana Littizzetto, sempre con la regia di Gianni Zanasi. E la follia dei Nardini si è trasferita anche agli attori, che hanno coniato l'espressione metodo Zanasi. Sentiamoli. Come avete lavorato? A cazzo ma con giudizio. No, effettivamente no, però in realtà significa distruggere tutto quello che hai studiato all'interno della sceneggiatura e riverificarlo sul set. Questo era il giudizio. La cazzo era, si può semplificare con un esempio, che scena è questa, Gianni? Boh, non lo so. Ma qual è la differenza tra fare un film e una serie TV con lo stesso spunto? L'abbiamo chiesto proprio a Gianni Zanasi. Guarda, la differenza è tipo tra il tennis e il ping pong. Oppure un altro che mi ero fatto da solo è questo, sta a sentire, bello questo. E un film è un viaggio, e fare una serie è un'agenzia di viaggi. Ecco, come il sesso, insomma, vedere come lo fai, eccetera. Però a volte viene bene, a volte meno bene, è uguale. Voi siete d'accordo? Sì, sì, la TV non si fa da soli. Come il sesso. Oddio. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:19 minuti, torniamo con GR24 Extra Large. E nella prima parte ci siamo occupati della visita del Papa che oggi è arrivato a Tel Aviv in Israele. Esplorare ogni possibile via per una soluzione giusta del conflitto, ha detto. E poi, a proposito dell'antisemitismo, combatterlo ovunque rialzi la testa. Queste le parole di Benedetto XVI. E poi la nuova vicenda che crea tensioni tra Italia e Malta. Respinta un'altra nave nelle acque maltesi. 69 clandestini sono in viaggio verso l'Italia. E poi in Pakistan, dove la guerra tra l'esercito pakistano e i talebani ha fatto centinaia di migliaia di profughi. Poi, per quanto riguarda i dati economici della giornata, il profondo rosso, il calo registrato dall'Istat per la produzione industriale, ha fatto meno 4% a marzo, ma su base annua il calo è del 23%. E ripartiamo ora dall'inchiesta napoletana per Calciopoli. Siamo al momento della richiesta di condanna al processo napoletano. La peggiore è stata chiesta oggi per l'ex amministratore delegato della Juventus Giraudo, Enzo Danna. Che è successo? Sì, buongiorno. Sono 11 in tutto le condanne chieste dai pubblici ministeri Narducci e Beatrice nei confronti degli imputati di Calciopoli processati con il rito abbreviato. E la condanna più pesante, come avete detto voi, è stata chiesta per Antonio Giraudo, l'ex amministratore delegato della Juventus e accusato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, come altri 5 imputati, gli ex arbitri Lanese, Cassarà, Gabriele, Pieri e Baglioni, per i quali sono state chieste condanne che vanno da 1 anno e 4 mesi a 3 anni e mezzo di carcere. Gli altri 5 imputati che hanno scelto il rito abbreviato devono rispondere invece soltanto di singoli episodi di frode sportiva. Questa mattina, va detto, la discussione è stata caratterizzata tra l'altro da un aspro scontro verbale tra il PM Narducci e l'avvocato di uno degli imputati. Il giudice è stato costretto a sospendere per qualche minuto l'udienza. Ricordiamo che invece, per quanto riguarda il processo Calciopoli, che si svolge con rito ordinario, quello che vede tra gli altri imputati anche Luciano Moggi, riprenderà venerdì prossimo davanti alla 9ª sezione del Tribunale. È tutto da Napoli, vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna. L'Italia è già multietnica, è stata questa la replica di alcuni e per esempio anche della Conferenza Episcopale Italiana alla presa di posizione del Premier Silvio Berlusconi, che si era detto proprio contrario, che il suo governo è contrario a una Italia multietnica. Ma come sono già nella realtà le nostre città da questo punto di vista? Difficile raccontare un tema così complesso come in un... E quindi cerchiamo solo di darvi un'idea. Oggi siamo andati a girare per le strade di Milano. Lunedì mattina, zona Porta Venezia, uno dei centri nevralgici del capoluogo lombardo. Tra le strade e nei negozi è un continuo via vai di persone. Qual è la loro esperienza quotidiana? L'Italia è o no un paese multiculturale? Sì. Ci sono mai tutte le razze, penso che è multietnica. Ma sì, dai, poi se guardiamo poi qui in queste zone, vero o no? Lo viviamo proprio tutti i giorni. Noi abbiamo qui l'ufficio, per cui quando si passa in queste vie si vedono in questa zona che ci sono persone dell'Eritrea, persone della Somalia, hanno un modo di vivere un po' diverso dal nostro, ma direi fastidio non lo danno. A me piacerebbe che lo diventasse ancora di più. Sì, in questo quartiere sì, almeno. Ci sono parecchi negozi, ristoranti di immigrati, poi molti ristoranti sono frequentati da tutti, non da solo dalla nazionalità del ristorante, quindi è carino, a me piace. Don Giorgio Riva, la realtà in cui lei vive è una realtà multietnica? Sì, è ampiamente multietnica, con splendidi esempi di convivenza e anche purtroppo molte tensioni. C'è un trattamento talora non buono da parte dei nostri nei confronti degli immigrati. Quindi cosa si sentirebbe di rispondere al Premier Berlusconi che ieri ha affermato non vogliamo un'Italia multietnica? Che è già una realtà e che non si può andare contro la storia, piuttosto occorre usare intelligenza per viverla bene. E domani andremo a Roma. E ora parliamo della class action, perché dopo l'emendamento che blocca la retroattività, proviamo a fare il punto, perché il disegno di legge sviluppo domani sarà in aula e oggi c'è stata una conferenza stampa dei consumatori per dire la loro. Paola Cavadi, cosa hanno detto? Sì, buongiorno. Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra contro le norme sulla class action contenute nel disegno di legge sullo sviluppo che domani arriverà in aula al Senato. Adiconsum e Unione Nazionale dei Consumatori chiedono alcune fondamentali modifiche al testo, ma sentiamo il presidente dell'UNC, Massimiliano Dona. E alle associazioni dei consumatori è impedito di farsi promotori di azioni collettive. Il rischio in questo caso è che, dovendole fare il singolo danneggiato, quel signor Rossi che non si azionava per i 20 euro indebitamente ritrovati nella sua bolletta, oggi dovrebbe azionarsi non solo per se stesso, ma anche per tutti gli altri che sono nella stessa situazione. È evidente che non ne troverà la forza. Alla legge, lamentano ancora le associazioni di consumatori, ogni singolo cittadino ricorrente dovrà presentare in tribunale tutta la documentazione del caso insieme alle prove, il che, ha spiegato Paolo Landi di Adiconsum, rischia di ingolfare ulteriormente il già difficile lavoro dei nostri tribunali. La legge poi impone ai ricorrenti l'obbligo di pubblicità dell'azione collettiva, ma pubblicità significa ad esempio comprare spazi sui quotidiani, provvedimento costoso, dicono ancora le associazioni di consumatori, che andrebbe sostituito con un più sostenibile obbligo di informazione. Infine, altra richiesta è che la retroattività della legge, cancellata con un emendamento del PDL, venga mantenuta per un anno, cioè a luglio del 2008, in modo da non escludere così la possibilità di risarcimento degli obbligazionisti di Alitalia. E da Roma è tutto, a voi studio. Grazie a Paola Cavadi. Giro d'Italia, terza tappa, in studio con noi c'è Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Anna, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, terza tappa, un'altra tappa per velocisti dopo la vittoria di ieri di Petacchi, e si va nel nord-est, nella patria del Prosecco, quindi chiamiamola una tappa frizzante, a Valdobbiana e l'arrivo, e si spera che sia così, un'altra giornata di sfide tra sprinter, soprattutto tra Cavendish, che è questo nuovo velocista americano bravissimo, e che però è il nuovo, mentre Petacchi, il giovane e il vecchio un po', no? Esatto, il giovane e il vecchio. Petacchi è così, 35 anni, ha tantissime vittorie alle spalle, mentre questo ragazzo dell'isola di Man è una, così, è un assoluto talento, un'assoluta novità, che però ha già vinto la Milano Sanremo e sta dando così brio e bollicine a questa prima parte della Giro d'Italia. Dario, c'erano un po' di attese per questo giro del centenario, adesso siamo appunto alla terza tappa. Che umore c'è tra i ciclisti in questa corsa, attorno anche alla corsa? Ma sai, si è partiti con questo mito, con questo Moloch del centenario, che così fa quasi paura perché sembra una cosa del un museo del Novecento, no? E quindi tutti i commentatori hanno insistito con le immagini di quando il Giro d'Italia è partito nel 909 da Piazzale Loreto, sembrava tutte queste foto virate a seppia, questi corridoi con i baffi a manubrio, sembrava un mondo che, ecco, di un'altra epoca, che secondo me non dà bene il segno di come è cambiato il ciclismo. Il ciclismo è uno sport con tanti pregi, tanti difetti, non dimentichiamo il doping, però è uno sport moderno, lanciato nel futuro, e quindi secondo me bisogna guardare anche gli aspetti moderni e belli anche di uno sport che porta soprattutto sulle strade ancora tantissime persone. Una notazione, già domani si va in montagna, è una novità, finalmente, però solo dopo 4 giorni. In genere il Giro d'Italia si aspettava un po' di più, sì. Sì, c'erano queste lunghe processioni, queste carovane che si portavano vicino ai monti, invece adesso ponti via subito in montagna, e quindi già la partita si fa interessante. Grazie Dario Ceccarelli. 13:33 minuti, GR24 extra large con le notizie di oggi. Il Papa in Israele invoca ogni sforzo contro l'antisemitismo, poi la preghiera, sia pace in Medio Oriente. Respinta un'altra nave nelle acque maltesi, 69 clandestini soccorsi dalla Marina Militare Italiana, ma nelle acque di competenza della Valletta saranno accolti in Italia, sono in rotta verso Porto Empedocle. Profondo rosso per la produzione industriale italiana a marzo, ma l'Ocse vede la fine del tunnel, segnale di ripresa per Italia, Francia e Gran Bretagna. Minacce degli anarchici contro calabresi sui muri di Torino, sono comparse frasi contro il neo direttore della Stampa. L'Iran cede alle pressioni internazionali, libera con la condizionale la giornalista anglo-iraniana accusata di essere una spia. Calciopoli, PM chiedono 5 anni per Giraudo, la richiesta è arrivata questa mattina al processo napoletano con rito abbreviato. Fortunatamente l'antisemitismo continua a sollevare la sua ripugnante testa in molte parti del mondo e ciò è inaccettabile. Parole di Papa Benedetto XVI giunto all'aeroporto di Tel Aviv questa mattina. Il Papa chiede anche di fare ogni sforzo per combattere l'antisemitismo dovunque si trovi. Salutiamo Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Il Papa dunque in Israele ci è arrivato, carico di molte attese. Questa mattina qualche parola l'ha già pronunciata, l'abbiamo sentita all'aeroporto, anche se l'appuntamento più importante sarà poi quello del pomeriggio. Quali le aspettative e come stanno andando queste prime ore secondo lei? La mia impressione è che la visita sia cominciata bene, sia cominciata solennemente con segni di grande rispetto reciproco e quindi questo crea dei presupposti a un successo che sia mediatico che importante che sostanziale. E adesso aspettiamo che ci siano i gesti successivi e ogni momento di questa visita avrà la sua importanza. Oggi sarà Yad Vashem. Yad Vashem praticamente significa il ricordo della Shoah e quindi questo è un fatto importante. Il Papa ha già affermato il suo totale rifiuto dell'antisemitismo. Mi auguro che in questa formulazione ci sia qualsiasi forma di ostilità antiebraica e non soltanto l'antisemitismo in senso razziale. E sono benvenuti i suoi auspici per una pace in Medio Oriente, nella quale lui come capo di Stato in qualche modo è anche parte in causa, e quindi la sua buona volontà è certamente un elemento di grande rilievo. Di Segni, lei ha citato la visita che ci sarà oggi al Museo del Yad Vashem e la questione che scotta e che divide un po' la Santa Sede dal mondo ebraico è quella della figura di Pio XII, la famosa lapide che c'è in quel museo in cui si ricordano i suoi silenzi sull'Olocausto. Vi aspettate che dica qualcosa? Eventualmente cosa? Intanto per la precisione, Yad Vashem comprende una parte diciamo celebrativa, un mausoleo e un museo, e nella parte museale ci sta non una lapide ma un poster che esprime dei dubbi, non delle certezze, sulla figura di Pio XII. Mi immagino che in tutta questa cosa non ci sarà la visita al museo, ci sarà semplicemente la parte diciamo celebrativa nel mausoleo che contiene le ceneri di vittime e che quindi tutto il resto del problema probabilmente sarà eluso, ma bisogna vedere quello che succede. L'altro caso più recente, lo scontro diplomatico se così possiamo chiamarlo, è il caso della riabilitazione delle Fevriani, il caso Williamson per intendersi, su cui il Papa ha già fatto in qualche modo autocritica. Su questo vi aspettate che confermi la critica dei negazionisti? Ci sono attese? Ma io penso che su questo argomento quello che doveva essere detto è stato detto dopo il pasticcio successo, è stato detto molto fermamente dallo stesso Papa, anche con un gesto diciamo abbastanza non usuale. Non mi pare che su questo ci debba essere qualche dubbio o ci possa essere qualche dubbio e anche necessità di ribadire delle cose che peraltro devono essere ovvie. Il problema non è tanto lui che c'è nel problema, ma anche su questo ci sono stati gli impegni seri. Il problema è della teologia dei fevriani in generale, che è arretrata o non in accordo con il Concilio e quindi con la sua compatibilità nella Chiesa di oggi. Sin qua dunque i rapporti tra il Vaticano e il mondo ebraico con qualche piccola frizione, qualche punto di frizione. Però il Papa adesso si trova nel crocevia tra le tre religioni e c'è una voce secondo la quale questo Papa arriverebbe in Terra Santa con un'immagine molto filo ebraica. Addirittura c'è una dichiarazione questa mattina di un deputato palestinese che dice: il Papa più filo sionista nella storia della Chiesa Cattolica. Come rispondere a questa posizione dal vostro punto di vista? Intanto dipende dai punti di vista. Se il Papa sia filo-sionista mi sembra esagerato, c'è da dire che i papi precedenti erano antisionisti e quindi c'è pensare di essere antisionisti non vuol dire abbracciare con entusiasmo la causa della bandiera dello Stato di Israele, semplicemente un atteggiamento un po' più attivo, evidentemente da certe parti, purtroppo estremamente diffuse, di radicalismo arabo e islamico, qualsiasi gesto di comprensione per l'altra parte viene preso come non una analisi moderata ma un'espressione entusiastica, e quindi è un problema di punti di vista, insomma, sono esagerazioni polemiche. Grazie, cioè. Grazie al rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni. E naturalmente continueremo a seguire i molti spunti nel corso della giornata della visita del Papa in Israele. E intanto però c'è un'altra questione invece tutta italiana e tutta aperta, anche dopo la giornata di riconciliazione al Quirinale, l'incontro tra le vedove calabresi e Pinelli. Nella notte tra ieri e oggi a Torino, sui muri di alcune sedi del Partito Democratico, sono scomparse infatti delle scritte contro il commissario Luigi Calabresi, rivendicate dalla federazione anarchica: Calabresi assassino, Pinelli assassinato, nessuna pace dello Stato. Questa è la frase scritta anche sui muri della sede del quotidiano La Stampa, dove dei giorni scorsi è stato nominato direttore Mario Calabresi, figlio del commissario ucciso. E però a preoccupare proprio in queste ore è anche un altro fenomeno. Si tratta dell'ondata neonazista, protagonista di nuovi gravi episodi di intolleranza in Austria e Grecia. Sentiamo. A fare notizia oggi sono Austria e Grecia, ma da tempo il riflusso neonazista che torna protagonista di quando in quando con nuovi episodi di intolleranza è una preoccupazione comune in Europa. L'ultimo grave episodio di antisemitismo in Austria, all'hotel del Tirolo che ha rifiutato la prenotazione di una famiglia ebrea, arriva dopo un'escalation di fatti analoghi. La profanazione alcune settimane fa del monumento del campo di concentramento di Mauthausen, seguita dall'irruzione venerdì scorso di un gruppo di neonazisti incappucciati alla cerimonia per il 64esimo anniversario della liberazione del campo. Ad Atene invece 5 immigrati sono rimasti feriti la notte scorsa in una catena di disordini tra polizia, gruppi di estrema destra ed estrema sinistra, culminati nell'assalto da parte di 300 neonazisti ad un edificio abbandonato occupato da alcune centinaia di clandestini a rischio espulsione. Una violenza sempre più esplosiva, comune a tutta Europa, ci dice Paolo Berizzi, autore di Bande Nere, libro inchiesta sul nuovo nazifascismo. Questi fenomeni ci dicono che c'è oggi una tendenza a livello europeo alla nazificazione, cioè i giovani delle bande nere di oggi sono sempre meno fascisti e sempre più nazisti, no? C'è una ricerca ad un'identità forte, sempre più esplosiva, cioè slogan che incarnano una violenza sempre più esasperata, e questo che forma il terreno di coltura per il riaffiorare di queste spinte neonaziste, xenofobe, protezioniste, isolazioniste. È un fenomeno che coinvolge tutta Europa e soprattutto, può sembrare un paradosso della storia, quelle nazioni, l'Italia tra queste, che hanno conosciuto le dittature nazifasciste. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E andiamo in America. Thank you. Thank you everybody. Good evening. You know, I had an entire speech prepared for this wonderful occasion. But now that I'm here, I think I'm going to try something a little different. È Barack Obama, la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Ieri sera il presidente americano non ha risparmiato battute a nessuno, con grande ironia ne ha avute per tutti, repubblicani e democratici, Dick Cheney e Joe Biden, Hillary Clinton e sua moglie Michelle. Non ha risparmiato neppure se stesso, scatenando applausi, ne sentite, ma anche molte risate tra i giornalisti che si occupano della presenza della presidenza americana. L'appuntamento è tra i più mondani di Washington, un gala da 2500 persone, dove per tradizione il presidente ti lascia andare a toni scherzosi, e Obama davvero ieri sera non ha mancato. Ai tavoli c'era anche parecchia Hollywood. E sin qua un Obama ciarliero che conversa divertendosi con la stampa. Però c'è anche un presidente degli Stati Uniti politico determinato, che questa volta ha preso di mira, pare, secondo la stampa americana, buongiorno Giulia Crivelli, intanto, ha preso di mira le concentrazioni sul mercato, è così Giulia? Sì, sappiamo che il presidente Bush in un quadro in generale di favore alla grande impresa, aveva un po' allentato la stretta dell'antitrust, che è un'authority molto forte negli Stati Uniti, poi se la sono inventata loro praticamente, l'aveva un po' allentata. Ecco, anche in questo Obama l'aveva promesso in campagna elettorale e lo sta già delineando quello che farà: rafforzerà i poteri dell'antitrust e soprattutto spingerà a riguardare, a rimettere mano a tutti quei dossier dove appunto ci sono le concentrazioni. Il primissimo caso è stato un attacco a Microsoft e Intel, accusate all'inizio degli anni 90 di avere un monopolio di fatto del mercato. Oggi le situazioni sono molto cambiate, Microsoft ha pagato fior di multe in Europa, in America e anche in Europa, ora però le concentrazioni ci possono essere, anzi ci sono ovunque, quindi attenzione, perché aspettiamoci mosse anche in questo caso. Il settore più delicato sarà quello dell'auto, naturalmente li vedremo, perché sarà tutto da dosare, da un po' di bastone e carota, nel senso che lì lo scacchiere è talmente in movimento in questo momento che forse quello è un settore, scrive il New York Times, dove probabilmente le cose verranno lasciate stare come sono per il momento. In Europa, Giulia, si stiamo avvicinando alle elezioni europee, un po' tutte le nazioni in qualche modo si muovono, Francia e Germania in particolare. Sì, un bel esempio di realpolitik: Angela Merkel, che in passato insomma qualche disaccordo con il presidente Sarkozy l'ha avuto, ma in questo caso si sono visti in Francia, e la copertina di Le Figaro dice senza mezzi termini che Sarkozy e Merkel vogliono rilanciare questa coppia franco-tedesca soprattutto sulla questione dell'Unione Europea. Sarebbero entrambi d'accordo sul fatto che adesso l'Unione Europea è grande abbastanza. Un ulteriore allargamento ad infinitum è sconsigliabile, un po' naturalmente per la situazione economica, ma poi davvero diventa difficile conciliare le varie identità e le economie che viaggiano ovviamente a velocità diverse. Cioè, poi la Germania purtroppo per fortuna ne sa qualcosa in fatto di integrare una parte del paese che era rimasta indietro. La lezione evidentemente l'è servita a capire che su queste cose bisogna andarci gradualmente, e quindi d'accordo con Sarkozy l'Unione Europea più grande di così non dovrebbe diventare. Grazie Giulia Crivelli, e di Europa avremo davvero molte occasioni nei prossimi giorni con il voto ormai alle porte. 13:48 minuti e 30 secondi a GR24 Extra Large. Siamo partiti in questa edizione dalle parole del Papa atterrato oggi a Tel Aviv in Israele: esplorare ogni possibile via per una soluzione giusta al conflitto tra arabi e israeliani. E poi Benedetto XVI ha detto: combattere l'antisemitismo ovunque rialzi la testa. E poi ancora attenzione tra Italia e Malta: respinta un'altra nave nelle acque maltesi con 69 clandestini a bordo che saranno presto accolti in Italia. Secondo l'ONU c'è 1 milione di profughi in Pakistan spinti via dal ovest del paese per la guerra tra esercito pakistano e talebani. Poi, per quanto riguarda i dati economici di giornata, il rosso nella produzione industriale segnalato dall'Istat. E ancora per la cronaca, ci siamo occupati del processo di Calciopoli. I PM hanno chiesto le prime condanne, 11 condanne, la più grave 5 anni all'ex amministratore delegato della Juve Giraudo. E ripartiamo come detto dall'Iran, perché un po' a sorpresa è arrivata questa mattina già il verdetto sul giornalista in carcere dal 31 gennaio scorso a Teheran, accusata di spionaggio a favore degli Stati Uniti. Una sentenza si aspettava in settimana, ma è arrivata davvero in tempi brevissimi. Sarà scarcerata Roxana, e non solo, nella sentenza si legge anche che gli Stati Uniti sono un paese non ostile. Insomma, da dove è arrivata questa svolta? Salutiamo Adib Fateh Ali. Sì, buongiorno. È arrivata, era comunque nelle aspettative. La cosa sorprendente invece è che gli Stati Uniti non sono un paese ostile e l'Iran non è in guerra con loro. Sarebbe stata questa la motivazione della Corte d'Appello iraniana che ha deciso la liberazione della giornalista. A riferirlo è stato ai media, è stato lo stesso avvocato della giornalista, Abd Samad Khorramshahi. La Corte di Teheran ha deciso di ridurre a 2 anni con la condizionale la pena di 8 di carcere inflitta in primo grado. Ma secondo la TV araba Al Jazeera, la giornalista, che ha la doppia cittadinanza americana e quella iraniana, è stata già rilasciata ed è stata autorizzata a lasciare addirittura il paese. È quanto riferisce un'ultima notizia di Al Jazeera. Grazie allora anche per questi aggiornamenti ad Adib Fateh Ali. E invece adesso noi torniamo in Italia, vogliamo accendere di nuovo i riflettori sull'Abruzzo. A quasi 40 giorni a questo punto dal terribile scossa di terremoto è cominciato stamani un altro programma di sopralluoghi nelle case crollate. Naturalmente sopralluoghi da parte dei consulenti nominati dalla Procura dell'Aquila. I nuovi controlli si concentrano nella zona del centro storico con la quasi totalità degli edifici pericolanti. Allora andiamo all'Aquila con Marcello Ianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Come dicevi tu, da stamane gli uomini della squadra mobile sono impegnati in nuovi sopralluoghi negli edifici pubblici e privati. Abbiamo la ricostruzione documentale di tutti i 140 stabili sequestrati in cui abbiamo fatto i controlli, ha detto il procuratore capo Alfredo Rossini. Abbiamo recuperato e stiamo recuperando tutte le carte d'identità con gli autori delle opere e le utilizzeremo per i processi. Intanto questa mattina l'Università dell'Aquila ha ripreso l'attività didattica con gli studenti ospitali in vari centri dell'Abruzzo ed anche fuori regione, come la Facoltà di Scienze Tecniche, Chimiche e Materiali, dislocata ad Arpino nel Frusinate. Studenti che tra mille difficoltà per seguire le lezioni e sostenere gli esami dovranno sopportare disagi, affrontare difficoltà e costretti spesso a una levataccia, a causa appunto della frammentazione dell'Università dell'Aquila. Molti giovani hanno annunciato l'intenzione di trasferirsi in altre città per il prossimo anno accademico, se le cose non cambieranno. Intanto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha rilanciato l'appello alle forze politiche e al governo affinché si possa arrivare al più presto a istituire una tassa di scopo mirata alla ricostruzione delle zone terremotate. Su questa ipotesi, ha detto il primo cittadino, ho convinto già l'opposizione di centrosinistra e parte della maggioranza di centrodestra. Per far rinascere l'Aquila e tutte le zone danneggiate, ha concluso Cialente, c'è bisogno di denaro subito. I soldi della tassa di scopo potranno essere rimborsati nel tempo, come avvenne con la tassa sulle Europa. Per il momento è tutto e dall'Aquila vi restituisco la linea. E grazie a Marcello Ianni. Ed è tutto, GR Extra Large si ferma qua, Alessio Maurizio Anna Migliorati in studio, al coordinamento Daniele Biacchessi, regia Fabio Cantadori. L'appuntamento per domani a partire dalle 13, buona giornata. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.